Liberi Dentro e Duradio, il programma di intrattenimento e cultura che fa ponte tra carcere e città. Andrea si è perso, si è perso, si è perso e non sa tornare. Giovedì 25 marzo, buongiorno di nuovo a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici della Città del Carcere. Siete in onda, siamo in onda, state ascoltando Liberi Dentro di Radio su Radio Città Fujiko e alle ore 10.30 su Tele Tricolore. Do il buongiorno ai miei ospiti sempre di questa settimana, a Ignazio De Francesco da Montesole, buongiorno. Buongiorno a te, a tutte e tutti. E a Roberto Lolli, sempre di... Buongiorno a tutti. Eccoci, buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte, buongiorno. Allora, oggi le notizie, parliamo della pandemia, non possiamo fare altrimenti perché intanto a Bologna siamo di nuovo in una situazione di, un po' come l'anno scorso, di chiusura quasi totale. E la pandemia ha svuotato le carceri di tutta Europa, leggo da l'inchiesta.it Laszlo Arato, il giornalista. Molti detenuti sono stati rilasciati per prevenire la diffusione da Covid-19 e nel frattempo anche il tasso di criminalità è diminuito, questi sono un po' i dati. E il Consiglio d'Europa ha incaricato lo scorso anno l'Università di Losanna di fare uno studio per vedere quanto si siano abbassati i numeri all'interno delle carceri. Quindi i dati forniti dalle amministrazioni penitenziarie di oltre 35 paesi sono stati esaminati prendendo in considerazione quattro fasi temporali del 2020. La prima della pandemia, dopo il primo mese di lockdown, al termine del lockdown e alla fine dell'estate. E che cosa è emerso? I dati indicano che tra gennaio e settembre 2020 la popolazione carceraria in Europa è diminuita in media del 4,6%, passando da 121,4 a 115,8 detenuti ogni 100.000 abitanti, quindi una grossa diminuzione. E solo un paese, questa è una curiosità, ha segnato un aumento del numero di detenuti, e qual è? È la Svezia, ma non perché in Svezia siano più cattive le persone o si delinqua di più, ma perché la Svezia ha avuto un lockdown meno duro di altri paesi e quindi sostanzialmente la vita ha continuato come prima. Ma non c'è soltanto questo fattore, il sistema per la diminuzione della persona all'interno delle carceri, c'è anche il fatto che il sistema di giustizia sta cambiando e quindi si sta cercando in tutti i modi di trovare dei metodi, almeno negli altri paesi europei, forse in Italia non è tanto così, di punizione alternativa. Ci tengo a dirlo perché è giusto, va detto. Ma ovviamente un altro fattore per la diminuzione delle persone detenute è anche quello della diminuzione del tasso di criminalità, siccome essendo tutti reclusi in casa, in qualche modo anche la possibilità di fare certi tipi di crimini in casa, di rubare, fare furti, si è notevolmente abbassata, e quindi ci sono diversi fattori a comporre questo quadro. Do la parola a te, Ignazio, con l'Algeria. Grazie Caterina, sì, parliamo di Algeria oggi, ma consentimi di scrivere un auspicio, ecco, a nome anche delle, non solo delle persone detenute, ma io credo di tutto il sistema carcerario. In un momento come questo, più è possibile, secondo le norme della legge, quindi non fare cose fuori legge, ma nella legge, consentire alle persone di avere un'alternativa alla reclusione in carcere, dobbiamo realizzarlo. Quindi un appello, non so, l'amministrazione, il tribunale di sorveglianza, tutti quelli che sono preposti. Se l'AVOC ha degli alloggi dove possono andare delle persone e questi alloggi sono vuoti, ecco, e si pagano gli affitti per questi alloggi, riempiamoli, dai, proviamo a farlo. Allora, parlati di Algeria, esatto. La mia parte sull'Algeria. Allora, abbiamo parlato delle donne in Marocco che sono nell'agenzia nucleare. Quasi 50% delle donne sono degli impiegati nell'agenzia nucleare, sono donne. Un'altra piccolissima cosa viene dall'Algeria, la notizia della PS, tutto un programma dello Stato algerino per l'accesso delle donne al microcredito. E anche queste sono cose importantissime. Non sono donne che sono nel nucleare, sono donne che stanno nella loro casa. Ci sono quelle che filano, quelle che fanno l'artigianato, ci sono quelle che tengono le api, gli alveari. Allora lo Stato algerino sta riconoscendo in modo crescente che tutta questa attività fatta da donne che sono mamme, che stanno in casa, è importante per il prodotto interno lordo. E quindi e si aiutano le famiglie. Quindi ci sembra un segnale molto importante questo dell'accesso delle donne al microcredito e anche un altro esempio che ci viene dall'altra parte del Mediterraneo che riguarda il mondo del lavoro femminile. È il momento di lanciare il primo brano musicale di oggi. Allora, abbiamo ancora a Fifa Iscandro, ho detto che bisogna avere l'orecchio e anche la passione di sentire le cose anche del nostro passato. A Fifa Iscandro è un po' come il duo Fasano, il trio Lescano. Pensate che questa cantante che è chiamata l'Uccellino, ecco il merlo dell'Iraq, a 5 anni aveva iniziato a cantare e a 12 anni si è sposata come un signore armeno, quindi siamo su cristiani, quando si dice i musulmani si sposano presto. Questa è una ragazza che a 12 anni è andata in moglie, ma ha continuato a cantare e ha fatto una grande carriera come cantante, ha lavorato anche come attrice, è apparsa in tanti film. Se un iracheno sente parlare via FIFA, subito dice ah sì, la notte. Quindi dagli archivi della televisione irachena abbiamo cavato fuori questo pezzo molto bello, molto insomma, dinamico, energetico, che si intitola Shaif Khair, guarda bene. الافراح بيدينا ورد منثور والزينة وشموع الافراح بيدينا ويا الحبايب غنينا ويا الحبايب غنينا هالهلولة هالهلولة هالهلولة هالهلولة وهالهلولة هالهلولة هالهلولة هالهلولة وقولوا لو شايف خير ومستاهلها طوق الورد لا يقلها شايف خير ومستاهلها. E sulle note musicali di Afifa Iskandar, Ignazio, siamo sempre su Liberi Dentro Edu Radio e con il nostro Galateo Arabo stiamo parlando di cibo e quindi ti chiedo, ci si può curare in qualche modo con il cibo? Sì, dal Galateo Arabo Islamico viene anche questa idea, ikhtiyar afdal anwa'i ta'am wa tajannub ardi li anna al-qasr min at-ta'am taqwim al-jasam, cioè cercare per quello che è possibile. E non è che uno deve essere un riccone, allora i cibi che fanno meglio, uno dice beh la cosa migliore è l'aragosta, ma non è detto, ecco, si possono mangiare anche delle cose semplici, anche poco costose, ma l'importante, abbiamo visto anche con la dietologa, per esempio non troppo artefatte, cucinarsi le cose, e cioè avere il senso, noi quando pensiamo curarsi, uno dice pensa subito alle pillole, o alle punture, o alle cose, i farmaci, la chimica, ma oggi sappiamo che c'è un modo di curarsi, e questo c'è uno sviluppo anche della coscienza civile, che attraverso il cibo. Grazie Ignazio, e ritorneremo con te domani su questo. E io invece a te Roberto, volevo chiedere, siccome ieri ne abbiamo parlato, come funziona l'ospitalità temporanea dei detenuti o delle loro famiglie dopo la scarcerazione per i detenuti e delle famiglie che vengono in visita nei posti che dati, nelle case. Ecco, sì, ci tengo subito a sottolineare questo. Le case che diamo non è che non siamo Babbo Natale, nel senso che abbiamo questi 8 appartamenti, come ho detto io anche ieri, un appartamento è stato dato in uso gratuito da una famiglia, gli altri 8 dal comune, e il sostegno che noi diamo ai detenuti ospitandoli, pagando le bollette, tutto quanto, avviene attraverso fondi che ci vengono dati sul progetto dalle fondazioni, da alcuni privati. Quindi diciamo che sono tutti soldi che la società ci regala per questo scopo, perché noi quando facciamo un progetto scriviamo quello che facciamo e lo documentiamo con le spese. Quindi è esattamente quello che diciamo di volere fare, cerchiamo di realizzarlo. Ecco, quindi questo grazie a tutti, quindi bisogna proprio dire così, grazie veramente a tutti. Quello che facciamo è quello di aprire una porta e dare un appartamento, un alloggio decoroso, pulito, con un minimo di, con un arredamento minimo, minimale, ma insomma è dentro, possibilmente piccolo, perché noi preferiamo, quando è possibile, appartamenti da 2/3, diciamo 2 persone. Cerchiamo anche, con la fatica dei volontari, che non siano tutti nella stessa zona, proprio perché se no diventerebbe l'alloggio, non sarebbe il carcere 2, no? Se io prendo 8 appartamenti, la stessa scala, preferisco invece che vadano in giro i miei volontari, quindi che i detenuti, ex detenuti che cominciano a abitare magari in 2 in un appartamento, vivono quello che è il condominio, con le problematiche della signora che si lamenta se fa il rumore, con tutte queste cose, con la porta che non deve sbattere, perché devono tornare, diciamo, nella società vera, non nella società, diciamo, ristretta, fra virgolette. Ecco, quindi questo è il nostro lavoro. Cerchiamo di dargli da mangiare se non ce l'hanno, se possono contribuire perché hanno un piccolo lavoretto, bene, si arrangiano ed è bello così. E questo passa, e così si passano i primi mesi, diciamo, di accoglienza. Siamo in rapporti con i servizi sociali, quindi a volte non tutti arrivano dal carcere della Dossa, altri arrivano da realtà magari di altre zone o di altri bisogni, sempre comunque legati alla detenzione. È interessante un dato, secondo me, sempre ante pandemia, perché oggi sono difficili a Bologna. Tutti gli anni praticamente il carcere si svuota e si riempie, magari purtroppo chi ha delle pede lunghe no, ma la statistica è questa: tutti i mesi ci sono 60, 50, 60 persone, 70 che escono per fine pena e chiaramente vengono rimpiazzate subito per quello che riguarda l'accoglienza della Dossa. Ma però sono persone che non tutte hanno l'accoglienza fuori, non tutte hanno la famiglia, e nel nostro piccolo, con anche altre associazioni che ci aiutano, perché adesso noi diciamo come AVO, però poi i contributi li abbiamo, per esempio in questo periodo anche dalla Caritas di Faenza ci ha fatto avere degli alimenti, proprio perché pochi lavoravano e diventava pesante una famiglia di 20 persone tutti i giorni da mettere a tavola, è piuttosto robusta, e allora le Caritas ci hanno aiutati, dico Faenza perché è un esempio, ma anche da altre parti, da San Giovanni per Ciceto, da Sant'Agata, da Bologna, da parrocchie, insomma, ecco, quindi è molto bello questo, tutto sommato, per questa solidarietà. Grazie. Grazie a te, Roberto. E allora, a metà puntata, io lancerei sempre sulla questione casa Max Gazzè, La vita com'è. Se fossi qui dipenderei dalle tue tenerezze, dette sul collo a bassa voce, ma lo sai, l'amore porta guai, si perde quasi sempre, c'è gente che facile non si riprende più, ma tu guarda me, prendo tutta la vita com'è, non la faccio finita, ma incrocio le dita e mi bevo un caffè, ammazzo il tempo provando con l'auto. E mi rimetto ripulendo il mio salotto dal terribile ricordo che resta di te. Se fossi qui mi lascerei dalle tue carezze, però ringrazio Dio che non ci sei, l'amore fa per noi, ma separatamente c'è gente che come me non si riprende mai, lo sai, guarda te, questo straccio di vita cos'è, non la faccio finita soltanto perché pronto un altro caffè, ammazzo il tempo provando con l'automeditazione, canto un po' testa. E mi rilasso finché non rompi addosso quel terribile ricordo rimasto di te, indifferente. Rieccoci, bentornati su Liberi Dentro, e come consuetudinario il giovedì abbiamo il nostro cappellano del carcere Marcello Mattè. Buongiorno. Buongiorno. Marcello, stiamo facendo tutti i passi del Vangelo per arrivare fino alla Pasqua, e finalmente con questo brano della domenica di 28 marzo Entriamo nella Settimana Santa e abbiamo un brano del Vangelo di Marco dal capitolo 11, versetti 1-10, dove abbiamo l'entrata trionfale di Gesù a Gerusalemme. Però c'è una cosa particolare, ci saremmo aspettati che Gesù avesse scelto un altro animale per entrare a Gerusalemme trionfante, quindi magari al posto di un asino un cavallo, ma perché lui sceglie questo animale? In effetti la scelta non è senza significato, perché il cavallo è la cavalcatura che usava il re, il sovrano, il guerriero, quando andava in guerra. Quindi era una cavalcatura di tipo militare. Invece, quando il re andava in corteo durante il periodo di pace, cavalcava un asino proprio a significare che stava mettendo da parte la dimensione guerriera del suo regno e invece si preoccupava di venire incontro al popolo con un regno che fosse un regno di pace. E poi in particolare questo episodio ricalca la profezia del profeta Zaccaria, dove dice: ecco, viene a te il tuo re, giusto, vittorioso, umile, cavalca un asino e segue, farà sparire il carro da guerra e il cavallo e l'arco da guerra sarà spezzato. Sta a significare proprio che Gesù, entrando in Gerusalemme, inaugura il suo regno, il regno di Dio, però non sarà un regno di guerra, sarà un regno che vuole portare pace. Rinuncia alla cavalcatura del guerriero, sceglie la cavalcatura umile dell'asino e annuncia che farà sparire l'esercito, gli armamenti, questa profezia che ci lascia Zaccaria. Il regno di Dio farà sparire gli armamenti, convertirà le armi in aratri, come dice il profeta Isaia. E qui Zaccaria dice che questo re che sta entrando glorioso nella sua città inaugura un momento di pace, un regno di pace, nel quale avrà anche inizio un nuovo rapporto con le altre nazioni. Dice, segue la profezia di Zaccaria dicendo annuncerà la pace alle nazioni, da mare a mare, dal fiume ai confini della terra. Quindi sarà un'era di pace per tutti, una nuova diplomazia basata non più sulla guerra, su rapporti di conflitto, ma su rapporti che tendono la mano all'avversario, che vogliono costruire pace. Questo è il regno di Dio che Gesù viene a portare, questa è la profezia sulla quale viene ricalcata la descrizione dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme. E siccome è quasi già il momento di lanciare un brano musicale, ti chiederei, dopo ritorniamo su questo, che cosa hai scelto per noi oggi? Ho scelto di proporvi Osanna, tratto dal film Jesus Christ Superstar, forse un'operazione nostalgica, a me è molto caro quel film, però questo brano in particolare è una sequenza molto, molto espressiva. Ascoltiamolo. We anticipate a riot. This common crowd is much too loud. Tell the mob who sing your song that they are fools and they are wrong. They are a curse. They should disperse. Your breath moaning at the crowd. Nothing can be done to stop the shouting. If every tongue were still, the noise would still continue. the rocks and stones themselves would start to sing. Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Songs, but not for me alone. Sing out for yourselves, for you are blessed. E rieccoci sulle note di Jesus Christ Superstar, Osanna, il brano. E appunto, Osanna. Osanna è l'acclamazione che fanno le persone che precedono e vedono Gesù arrivare in città. E che cosa significa questa parola? Adesso per noi è diventato un inno di gloria, cioè un modo di glorificare la persona. In realtà all'inizio e nel suo significato primo vuol dire aiutaci, è una invocazione rivolta al re che sta entrando nella città e il popolo lo accoglie dicendo sì, però tu aiutaci, vieni non per dominarci ma vieni per aiutarci. E noi, per essere qui oggi a commentare questo brano del Vangelo, abbiamo fatto però una scelta, perché tu sai benissimo che è uno dei pochi casi, a parte la Pasqua, dove abbiamo proposti più Vangeli, in questo caso due. E per quale motivo ce ne sono di più? Perché con questa domenica la liturgia inaugura, appunto, come dicevi all'inizio, la Settimana Santa, e quindi vuole comprendere già nel suo inizio di questa settimana sia l'annuncio di quello che sarà il regno di Dio glorioso, Gesù trionfante, che sarà però un trionfo dato non dal potere ma dalla consegna di se stesso sulla croce. Quindi un potere che quello del regno di Dio e del regno di Gesù che viene esercitato non togliendo la vita agli altri, ma dandola propria per gli altri. Marcello, ovviamente non possiamo dimenticare il fatto che ormai è passato un anno dai disordini della Dozza e che è stato un anno veramente particolare e per la seconda volta loro, proprio loro, si ritrovano ristretti nella restrizione. E quindi ti chiederei se tu che conosci tante persone, che entri da tanti anni lì come cappellano, se puoi dire un messaggio, qualcosa proprio destinato per loro, per tutti loro che ci ascoltano. Vorrei davvero invitarli a non lasciarsi cadere le braccia. Non abbiamo perso un anno. In questo anno è stato fatto moltissimo per ricostruire sia le strutture che erano state devastate dalla protesta, ma soprattutto per ricostruire le relazioni che erano state compromesse da quella protesta. Abbiamo fatto molto e non buttiamolo via di nuovo questo molto, teniamolo come un tesoro prezioso, ancora più prezioso proprio perché abbiamo saputo valutare quanto questo ci sia necessario. Grazie Marcello per questo messaggio e io ribatto con un brano musicale per chiudere al tuo Osanna, io ribatto con Alleluia che è un'acclamazione di giubilo che però forse è più legata alla Pasqua come tu sai benissimo, ma siccome ci stiamo avvicinando alla Settimana Santa allora ci stava ed è dei Pentatonics e noi ci rivediamo giovedì prossimo. Grazie mille. Grazie a voi e arrivederci. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift. The baffled king composing hallelujah. Tied you to the kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Anche oggi, la nostra puntata del giovedì, dopo aver ascoltato il cappellano del carcere Maestro Mattei, è giunta alla fine, ma vi ricordo sempre i laboratori. Abbiamo i diritti al punto con il magistrato Maurizio Millo alle 17 sulla televisione, canale sempre 636. Vi ricordo di scriverci, l'indirizzo postale è sempre quello, via Chiesa Santissima Annunziata, via San Mammolo 2, 40 136 Bologna, oppure la nostra posta elettronica liberidentro.eduradio@gmail.com. I ringraziamenti dalla redazione di Eduradio, con Ignazio De Francesco, l'ospite di questa settimana Roberto Lolli, il nostro tecnico Matteo Parisini, e noi ci rivediamo sempre qui, sempre domani, ore 9 sulla radio, ore 10:30 sulla televisione. Ciao a tutti, grazie.